Essere e benessere di Nicoletta Carbone. State pagando l'allenamento di ieri? Sentite i muscoli tesi, dolenti? Non so, ditemelo voi se lo state provando. 800 24 0024. Secondo voi quale potrebbe essere la causa? Insomma, come vi spiegate quei dolori o dolorini che insorgono a distanza di ore, anche di un paio di giorni dall'allenamento? Tre possibilità: l'accumulo di acido lattico, la riduzione di sali e acqua, i microtraumi muscolari. Chiamate subito il nostro numero verde 800 24 00 24. Alla prima risposta giusta faremo recapitare a casa un libro in collaborazione con la libreria Rizzoli.it, Ginnastica dolce, sempre in forma senza fatica, di Roberta Cavicchioli, De Vecchi editore. Ma se avete qualche dubbio, fatevi dare una mano dal dottor Confalonieri, che è qui per darci qualche indizio. Dottor Confalonieri, buongiorno. Buongiorno, ben ritrovati. Giornate intere trascorse chiuso in casa, senza mai muovermi, il corpo ne risente. Sogno una corsa all'aria aperta, sono fuori forma, comincio lentamente. Vago periodo vissuto intensamente, troppo lavoro, il corpo ne risente. Faccio una cosa, ne faccio un'altra, a testa bassa. Metto le scarpe, la tuta da ginnastica, mi metto a correre, mi giro un po' la testa, continuo a correre a testa bassa, sento un dolore nelle ossa. Acido lattico. Dottor Confalonieri, acido lattico, come canta egli alle storie tese, ma ci aiuti a dare una risposta esatta. Forse lui, forse potrebbe essere altro. Iniziamo a descrivere l'insieme di queste sensazioni che fanno dire sono tutto rotto. Beh, diciamo che intanto il dolore può avere caratteristiche diverse, quindi cominciamo a ragionare sulle caratteristiche di questo dolore. Possiamo sentire le gambe piuttosto che le braccia, se per esempio siamo andati a nuotare, o le spalle pesanti, lievemente dolenti, oppure possiamo avere un dolore forte e localizzato, oppure possiamo avere nessun tipo di sintomo a riposo e poi un dolore che compare nel momento in cui ci muoviamo o in cui cominciamo a fare dei movimenti particolari, o infine possiamo avere un dolore anche molto molto forte che compare in alcune situazioni e che simula un po' la situazione del crampo, della contrazione di tutta la muscolatura che è stata impegnata nel lavoro. Quindi già abbiamo diverse tipologie di dolore, e di solito il dolore post allenamento però non risponde a tutte queste caratteristiche, ma è proprio un dolore diffuso che compare quando facciamo determinati movimenti. Dottor Confalonieri, però conta il momento in cui si manifesta, se subito dopo l'allenamento, a distanza di ore, il giorno o i giorni seguenti? Ecco, questa è una domanda molto molto bella. Indubbiamente subito dopo l'allenamento sentiamo soprattutto i muscoli pesanti, affaticati, abbiamo la sensazione di aver lavorato e di quindi aver esaurito quelle che erano le capacità del nostro sistema muscolare. Poi tipicamente il dolore compare un po' di ore dopo, addirittura il giorno dopo, dopo che siamo stati fermi a lungo o per il lavoro o in auto o ancora più tipicamente la notte. Ecco che al momento in cui ci rimettiamo in moto il dolore è molto molto forte e ci segnala che il giorno prima abbiamo lavorato. Non vado oltre per non aiutare troppo i nostri sì, 800 24 00 24, chiamateci. Dottor Confalonieri, ma ci sono sport che più di altri possono provocare questa sensazione dolorosa? Ad esempio Luigi da Verona mi scrive: mi capita quando corro in discesa. Non è più facile correre in discesa? Meno... diciamo che l'SMS di Luigi ci conduce già verso la risposta esatta. Adesso spero che qualcuno l'abbia già mandata, però indubbiamente ci sono sport che predispongono maggiormente al dolore successivo all'allenamento e in particolare al dolore del giorno dopo. Sono gli sport in cui o c'è un traumatismo elevato, cioè c'è degli impatti violenti o relativamente violenti col terreno, per esempio, oppure sono sport in cui utilizziamo la muscolatura, vedi la discesa, che è tipicamente una causa scatenante del dolore del giorno dopo, in modo atipico, non direi improprio ma atipico, nel senso che il muscolo in discesa ha un'azione frenante e quindi è stimolato in un modo diverso da come viene naturalmente stimolato. Ci siamo quasi, dottor Confalonieri, abbiamo dato abbastanza indicazioni, ma io vorrei analizzare altre due variabili e vorrei farlo col dottor Melegatti, che è in linea con noi, medico sportivo e primario fisiatra della riabilitazione dell'Istituto Ortopedico a Galeazzi di Milano. Buongiorno, dottore. Buongiorno, Nicoletta, buongiorno agli ascoltatori. Allenamento ed età contano? E ma direi di sì, direi che contano e come. L'allenamento conta in quanto un allenamento sbagliato, incongruo, può portare il soggetto a una situazione per esempio di overtraining, vale a dire di superallenamento. Un allenamento non ben dosato porta a una situazione di affaticamento rapido e questo vuol dire abbassamento del pH a livello del muscolo, vuol dire accumulo di radicali liberi, vuol dire in sintesi una sorta di ingolfamento del muscolo, e questo è il dolore che può arrivare durante l'attività sportiva. Poi è chiaro che esiste anche, come ricordava bene il dottor Confalonieri, il tipo di attività svolta. Un'attività che prevede un lavoro muscolare prevalentemente in allungamento può favorire l'insorgenza del dolore tardivo. E l'età naturalmente conta, perché più invecchiamo e più i nostri muscoli e le nostre articolazioni diventano un po' meno flessibili e un po' più rigidi, e questo sicuramente non favorisce il normale gesto dell'attività sportiva e quindi favorisce sovraccarichi e quindi dolore. Abbiamo Grazia dalla provincia di Roma, 800 24 0024. Benvenuta Grazia. Grazie. Nicoletta, grazie. Sono lieta di sentirti e complimenti per la trasmissione. Grazie. Di cuore. Grazie mille. Ha una risposta, una domanda? Beh, no, volevo rispondere al quesito dei tre professori per quanto riguarda l'affaticamento muscolare. Io ho pensato acido lattico. Allora, dottor Confalonieri, è l'acido lattico? No, non è la risposta giusta. Diciamo che, come accennava il dottor Melegatti, l'accumulo di acido lattico, la modifica del pH a livello muscolare, unito alla liberazione di radicali liberi e di altre sostanze che hanno un'azione favorente il dolore, può giustificare o giustifica il dolore, ma soprattutto direi l'affaticamento durante l'esercizio fisico. O subito dopo? Sì, ma proprio immediatamente dopo, mentre non è la causa del dolore successivo all'esercizio, anche perché, questo è molto importante dirlo, l'acido lattico ha dei tempi di smaltimento abbastanza rapidi, nel giro di 20-30 minuti è completamente smaltito, è passato attraverso il circolo, quindi attraverso il sangue a livello epatico dove viene metabolizzato, e quindi non è assolutamente legato da questo punto di vista al dolore tardivo e soprattutto al dolore del giorno dopo. E questo è importante sottolinearlo, perché tanti sono convinti che il tipo di allenamento fatto e quindi l'accumulo di acido lattico giustifichi il dolore, e ci sono anche tanti operatori, tanti massaggiatori, tanti fisioterapisti che dicono: adesso ti sistemo io perché eliminiamo l'acido lattico dai muscoli. Ecco, questo è, se n'è già andato l'acido lattico. Esatto. Allora, resta la riduzione di sali e acqua e i microtraumi muscolari. Davide dalla provincia di Varese, 800 24 0024. Buongiorno. Sì, buongiorno. Niente, io pensavo fossero i microtraumi che solitamente diciamo insorgono appunto 24 ore dopo, 48 ore dopo che si fa l'esercizio muscolare intenso. E l'unica domanda appunto che volevo fare eventualmente era che cosa si può fare per cercare di accelerare la ricostruzione muscolare. Davide, lei che sport pratica? Niente in particolare, diciamo, faccio un po' di palestra, un po' di tennis, piscina, cioè, però niente in maniera assidua, diciamo. Dottor Confalonieri, microtraumi, dice Davide? Diciamo che adesso Davide si dedicherà anche alla ginnastica dolce perché ha vinto il nostro libro. Bravo Davide, sono i microtraumi, dottor Confalonieri. Nel senso che comunque il muscolo va visto come una struttura non statica, non definitiva, ma in continua evoluzione. E quindi uno degli effetti alla lunga positivi dell'esercizio fisico è proprio determinare questi microtraumi, questi riadattamenti e poi questa resintesi, questa ricostruzione del tessuto muscolare, che per esempio è anche alla base poi dell'ingrossamento muscolare, dell'azione ipertrofica che ha l'allenamento, per cui allenandoci a lungo diventiamo anche più grossi a livello muscolare. Quindi l'effetto è potenzialmente positivo, ovviamente va gestito con attenzione, cioè dobbiamo chiedere al nostro organismo quella giusta, adeguata quantità di sforzo che consente poi di assorbire il lavoro fatto e di ricostruire e rimodellare il muscolo aumentandone la forza e l'efficienza. Quindi allenarsi con continuità, con progressività, evitando il rischio di sovraccarichi e recuperare tra un allenamento e l'altro. Il segreto è il recupero. Sì. Eventualmente a questo punto sì, il massaggio defaticante, decontratturante di recupero, ma non mirato tanto allo smaltimento dell'acido lattico quanto proprio alla riduzione di questo dolore legato al microtraumatismo di cui parlavamo. Perché abbiamo capito che l'acido lattico se ne va da solo e rapidamente. Dottor esatto. Confalonieri, grazie per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Grazie a voi, a presto e a risentirci con tutti. E noi restiamo con il dottor Gianluca Melegatti, che quindi un po' di dolore noi lo mettiamo in conto, ma non dobbiamo mollare perché i benefici di una regolare attività fisica, questa è una regola che abbiamo imparato, superano i rischi e gli eventuali acciacchi temporanei. Assolutamente, basta che siano ben organizzati e ben condotti. Allora, oggi noi vogliamo occuparci del benessere muscolare e di quello articolare. Qua in studio con me, a proposito di articolazioni, ho Alessandro Pellizzari, lo sapete che una volta al mese star bene entra a essere benessere e ci viene a trovare. Alessandro Pellizzari è vice caporedattore del mensile Mondadori e nel numero in edicola parlano proprio di articolazioni, del benessere di articolazioni o perlomeno di un problema che può interessare le articolazioni. Alessandro, intanto benvenuto. Grazie Nicoletta, è sempre un piacere venire a trovarti. Avresti risposto microtraumi o acido lattico o sali tu? Se devo essere sincero, l'acido lattico sarà perché avete scovato questa bellissima canzone di Elio che non conoscevo, Laura siete stati bravissimi. Bravissima in però redazione. Mi ero un po' soffermato su quello. E lo confesso, così come confesso la mia ignoranza, fra virgolette, quando ho scritto questo pezzo che si intitola, che trovate su Starbene di questo mese, soffre di reumatismi, va in piscina, perché sembra, è un titolo un po' provocatorio, però in realtà ho scoperto che le malattie reumatiche sono tantissime, che ci sono un sacco di falsi miti sui cosiddetti reumi, che per esempio uno dei falsi miti è il contatto con l'acqua, mentre l'acqua può far bene, addirittura anche il freddo può far bene. E poi ho raccolto tutta una serie di situazioni che poi ha spiegato l'esperto, in questo caso questo articolo, che sono legati per esempio alle giovanissime, che quindi si considerano immuni da tutta una serie di problemi articolari, mentre bisogna investire proprio nel periodo in cui si è più giovani, che sono legati per esempio all'alimentazione. Quindi certo. Mi sono molto divertito, ho imparato molte cose ad approfondire questo argomento. Abbiamo Saro, ci chiama da Verona. Buongiorno Saro, benvenuto. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo fare una domanda. Dunque, io corro da 30 anni, ho 57 anni e ho ridotto negli ultimi 10 anni, da prima facevo gare competitive, adesso corro 3 volte alla settimana, un'oretta circa, blandamente, e da 3 anni ho sempre, che prima non avevo, molti più problemi alle gambe, ai muscoli. E sto prendendo anche dall'equivalente periodo, da 3 anni, un farmaco che si chiama a base di esomeprazolo. Ci può essere una correlazione? Perché ho tanti, ho più problemi adesso che corro 3 volte blandamente rispetto a prima che facevo allenamenti più intensivi, ecco, quando facevo gare competitive. Tutto qua. Grazie a lei, Saro. Dottor Melegatti. Ma io non trovo una correlazione con il farmaco che lei prende e i dolori che sono insorti con la diminuzione dell'attività. Credo che bisogna prendere in considerazione il fatto che tempo è passato e quindi l'organismo, con tutti quei chilometri alle spalle, probabilmente adesso è più suscettibile di andare incontro a sovraccarichi rispetto a prima. È anche vero che un allenamento più intenso e più regolare favorisce la possibilità poi di avere meno problemi, ma io credo che il problema sia legato proprio al fatto che il tempo passa ed è normale che dopo una vita di corsa e di soprattutto di attività sportiva importante, impegnativa, agonistica, possa venire fuori questo tipo di problema. Molti di voi mi stanno scrivendo dei rimedi per far passare questi dolori muscolari. Abbiamo capito che non si tratta di acido lattico, ma molti ascoltatori mi dicono secondo me sì invece. Ma insomma, il problema non è, noi abbiamo cercato di darvi delle indicazioni, poi ciascuno si confronta con il dolore, questa tensione muscolare, pensando a quale sia la causa che gli piace di più, ma vogliamo farcelo passare. Molti ad esempio mi scrivono: è vero che la sauna aiuta a smaltire l'acido lattico, dottor Melegatti? Ma allora direi di no, la sauna non ha poi questo ruolo così interessante per controllare questo dolore post esercizio. Quando parliamo di dolore post esercizio, però, dobbiamo riferirci non tanto al dolore provocato dall'acido lattico, perché come abbiamo visto è un dolore veramente temporaneo e non è quel dolore che ci infastidisce così tanto. Quel dolore che ci infastidisce così tanto è il dolore che ci proviene dai muscoli quando sono stati sollecitati in maniera importante, soprattutto magari per attività che prevedono l'allungamento dei muscoli, la corsa in discesa, sì, i balzi. Allora ci sono dei rimedi precisi che io vorrei dare. Il primo rimedio è quello di far seguire sempre a questo tipo di attività una reintegrazione di proteine proteica, quindi la dieta gioca un ruolo fondamentale, perché è come se noi perdessimo dei piccoli pezzettini di muscolo, dei piccoli mattoncini, e dobbiamo reintegrare questi mattoncini, e lo facciamo con una dieta ricca di proteine. Seconda cosa, l'idratazione è fondamentale, bere prima e dopo. E terza cosa, l'esposizione al freddo. Questo è un po' un mio pallino, perché l'abbiamo studiato a livello scientifico e abbiamo pubblicato anche studi che hanno dimostrato che l'immersione delle sole gambe in acqua molto fredda, certo, non è piacevolissimo, no, e questo lo si può fare bene in estate. Mi viene già la pelle d'oca. L'immersione di pochi minuti in acqua fredda, parlo di 7-10 gradi, pochi minuti, smaltisce, aiuta tantissimo a smaltire questo tipo di fatica. Quindi non il caldo, come non si poteva caldo, pensare. Non il caldo, ma il freddo. Quindi io consiglio a qualsiasi atleta che voglia fare, che faccia questo tipo di attività, di riempire la vasca da bagno di una spanna d'acqua fredda, buttarci dei cubetti di ghiaccio, mettersi una bella felpa, entrare seduto, rimanere qualche minuto e uscirne, e vedrà che l'effetto è straordinariamente interessante. Da brivido. 800 24 00 24, restate insieme a noi. Ho già Giovanna da Milano, Massimo dalla provincia di Messina, a cui chiedo di accompagnarci a sentire i mercati, poi il meteo per tornare insieme. Benessere muscolare, benessere articolare, uno condiziona l'altro, in che modo, cosa possiamo fare? Abbiamo già capito il freddo, ci tocca acqua bella ghiacciata. Ho sbagliato. Tu avresti bambini, evidentemente. Sempre al caldo. Esatto. Vi ricordo il nostro Daily Lab, l'appuntamento quotidiano con i nostri esperti che ci insegnano giorno dopo giorno a diventare protagonisti attivi della nostra salute e del nostro benessere. Voilà! Essere e benessere. Vieni a giocare a squash con me domani, ho prenotato il campo e Dana non può venire. Va bene, puoi servire. Sai che ti dico? Prima tu. Ehi, arbitro, fallo! E vivo, ho vinto. Insomma, ne valeva la pena. Dici che valeva la pena di ridurci così? Noi stiamo andando al fast food, volete qualcosa? Del ghiaccio. Vede, dottor Melegatti, lo sapevano, del ghiaccio. Il ghiaccio, ha visto. Per essere precisi dovevano dire del ghiaccio da aggiungere all'acqua della vasca. Ecco, per cui sono mezzi promossi. Massimo, dalla provincia di Messina, il lamento dello sportivo. Massimo, buongiorno. Buongiorno, come dicono qua, salve. E la ringrazio per avermi dato la possibilità di chiedere una domanda al dottore. Sì. Allora, diciamo, io ho sempre praticato sport a livello più o meno continuo. E una diceria, volevo sapere se ha qualche fondamento. Per eliminare il fastidio, come diceva il dottore, che non è un dolore ma un fastidio, dell'acido lattico, l'assunzione di un cucchiaio di bicarbonato ha qualche effetto benefico oppure è solamente proprio una bufala? Sì, ma come? Cosa fa lei, Massimo? Non ho capito. Cioè, si mangia il bicarbonato così? Ma allora, dopo aver fatto un esercizio che un po' che non facevo, quindi ho sforzato il muscolo a... Massimo, sta mangiando il bicarbonato adesso? Mi sta mangiando il bicarbonato in diretta. È caduta la linea. Massimo, sei emozionato. Capito, però dai. Allora, dottor Melegatti, certo che questi se ne fanno di tutti ma guarda i colori. Che su questo argomento hai scoperchiato il vaso di Pandora. Dottor Melegatti, cosa le sembra? Ma mi sembra che sì, è una metodica che ogni tanto si fa. Veramente? In teoria un po' per abbassare il pH dell'organismo, però sinceramente non c'è nessuna evidenza scientifica che questo possa aiutare lo smaltimento di questo dolore qua. Quindi non mi sento di consigliare una pratica del genere. Alessandro. Sì, domanda interessata. I miei due piccoli calciatori, 9 anni e 7 anni, dopo la partita io, forse sbagliando, gli faccio fare un bel bagno caldo. Sì, abbiamo perché già anche capito loro hanno che... il loro dolore, no pain, no gain, a tutte le età. Cosa devo fargli fare? Non posso immergerli. Ma in no, certo, fa benissimo a fargli fare un bagno caldo. Va bene. Non, il bagno caldo favorisce veramente la riossigenazione dei tessuti e quindi dà un senso di benessere. Non posso pensare che i suoi ragazzini possano essere in overtraining oppure avere dolori da quella patologia microtraumatica che noi chiamiamo DOMS, D-O-M-S, cioè che è poi il dolore post allenamento, quindi no, certo. va bene. Allora, benessere del muscolo, benessere delle articolazioni, cerchiamo un po' di capire da che parte iniziare, forse scegliendo l'attività giusta, naturalmente deve piacerci, ma insomma andiamo a sentire qualche suggerimento dalla nostra scheda, poi la commentiamo. Bicicletta, un'ottima scelta per tonificare e rinforzare in modo armonioso i muscoli delle gambe, senza il rischio di stressare le articolazioni di anche, ginocchia e caviglie. Un'ora ad andatura normale permette di bruciare circa 210 calorie. Se sei in sovrappeso, pedala! Corsa, impegna cosce, polpacci e glutei e aumenta fiato e resistenza. Un'ora vale circa 300-350 calorie, ma se hai qualche chilo in più, occhio ai traumi articolari. Nuoto, e tutta la muscolatura ringrazia. Il movimento in acqua evita traumi alla schiena e alle articolazioni. In un'ora fa bruciare da 400 a 500 calorie. Che aspetti a tuffarti? Dottor Melegatti, ma possiamo aggiungere la passeggiata, il calcio, il calcetto, la pallavolo? Ma possiamo aggiungere qualsiasi tipo di disciplina sportiva che diverta la persona che la svolge. C'è modo e modo, naturalmente, di fare questo tipo di attività sportiva e soprattutto queste attività sportive, se svolte con continuità e con impegno, non sono per tutti. Certo. Per esempio la pallavolo non è per tutti, la pallavolo è per persone che sono adatte a giocare a pallavolo, per persone che non sono eccessivamente sovrappeso, che hanno una base tecnica, perché sennò non si divertono e si fanno male. Il calcio, la stessa cosa, noi vediamo tantissime persone che giocano a calcetto o a calcio anche in età avanzata, 50, anche 60 anni, però purtroppo gran parte di queste persone le vediamo negli ambulatori. Sì, è una manna. Questa è la realtà, voglio dire, questa è la realtà. E quindi va bene fare calcio, però bisogna farlo con giudizio, bisogna essere preparati a fare calcio. Se io sono sovrappeso di 30 kg e non gioco a calcio da 20 anni, beh, fare una partita a calcio non è la cosa migliore che io posso fare. No, perché? E poi hai voglia di metterti nella vasca da bagno col ghiaccio, eh? Allora meglio camminare. Meglio camminare, fantastico. La passeggiata. Anche a buoni ritmi, anche magari in salita, quello è perfetto, perché l'impatto è un'attività a basso impatto e quindi preserva le articolazioni, non stressa troppo i muscoli e dà dei vantaggi importanti in termini di consumo calorico e di movimento. Dottor Mariagatti, cosa ne pensa di tutti questi software con console? Perché adesso molte persone che ricominciano un po' hanno l'opportunità di usare questi videogiochi, fra virgolette, in realtà sono dei veri e propri personal trainer, addirittura a volte con il cardiofrequenzimetro, per ricominciare a fare un po' di movimento, perché poi molto spesso, non so, i cardiologi ci dicono guarda, dovresti almeno un quarto d'ora al giorno, così. Cosa ne pensa in generale? Ma penso che in generale sono delle ottime cose, penso che la tecnologia ci dà una mano e in questo caso ci dà veramente una mano, perché sono software che prevedono dei programmi studiati in maniera corretta. È chiaro che abbandonarsi totalmente a questa pratica senza avere perlomeno un consiglio iniziale, un inquadramento iniziale da una persona esperta, beh, allora io questo non lo consiglio, però di per sé queste attività sono ci piacciono. Sì, ci piacciono. Amy da Milano, buongiorno. E poi Giovanni. Buongiorno, una domanda velocissima. Io sono stata operata al legamento crociato un anno fa e ho fatto tutta la terapia, quello che bisogna fare, moltissimo nuoto. Il problema è che dopo mi sono un po' stancata, ho smesso gli esercizi, ho visto una caduta del muscolo impressionante. Io so che alcuni amici che hanno avuto la stessa operazione, soprattutto sportivi, hanno integrato con aminoacidi e proteine per bocca. A me è stato sconsigliato. Quindi la vostra dieta proteica è ricca e tutto, è per cibo oppure anche per integratori? È sufficiente una dieta per cibo, come dice lei, vale a dire una dieta che abbia un apporto proteico dagli alimenti, non c'è bisogno di prendere degli integratori, anche perché stiamo attenti agli integratori. Gli integratori vanno presi se c'è un'attività fisica che ne giustifichi l'assunzione. Mi spiego, lei non può pensare di recuperare una ipotrofia muscolare prendendo solo integratori. Gli integratori vanno presi se lei riprende a fare un lavoro muscolare mirato proprio al recupero muscolare attraverso l'esercizio. E poi non si preoccupi troppo delle dimensioni del suo muscolo. La cosa importante non è tanto la dimensione del muscolo, quanto quanto questo muscolo è in grado di sviluppare in termini di forza. Cioè, un muscolo piccolo può sfruttare il 100% delle sue fibre muscolari, un muscolo grosso può sfruttarne solo il 70% e quindi lavorano in maniera identica. Quindi bisogna valutare bene, ci sono dei test di valutazione che possono essere effettuati, come un test isocinetico che ci dice perfettamente qual è la situazione di quel muscolo. Abbiamo Giovanni da Milano, la sua domanda prima della viabilità, così Carmelo Lauricella, che è in regia e mi sta già facendo segno che è pronto per la viabilità, è contento, siamo tutti puntuali. Giovanni, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletta, salve. Ho fatto karate per tanti anni, ho smesso a 35 e ho ripreso a 41. Sì. E da quando ho ripreso è stato un continuo strappi, diciamo contratture. E niente, adesso ho preso una contrattura. Si sente un po' bastonato. Essere e benessere. Dottor Mariagatti, una risposta per il nostro ascoltatore. Ma se noi riprendiamo a fare uno sport che ci piaceva, poi abbiamo interrotto e lo riprendiamo e siamo alla fine tutti rotti, non conviene cambiare? Ma io a Giovanni non dico di non mollare, nel senso che per lo sport specifico che lui fa e che lui ha fatto per 30 anni, gli dico che lui, avendo fatto per 30 anni karate, che è un'attività, è una disciplina più che uno sport particolare, che prevede autocontrollo, conoscenza del corpo, quindi gestione dei movimenti, io gli dico di non mollare, perché lui ha sicuramente le risorse per riprendere l'attività con soddisfazione. Basta che lui si risistemi, si rimetta a posto in quattro dei punti che io considero fondamentali, che sono la flessibilità, lui deve recuperare la sua flessibilità, la velocità, l'equilibrio e la forza. Lui è senz'altro in grado di capire cosa intendo e di impostare un programma fisico che gli permetterà poi di riprendere bene. Che se noi vogliamo sono quattro parole chiave che ci aiutano anche quando noi ci sentiamo a pezzi, certo, dal punto di vista psicologico. Certo. Eh? Certo. Flessibilità nell'essere, velocità, equilibrio e forza. Sono, certo, tante volte le cose che fanno bene proprio in questo caso a muscoli e articolazioni, fanno bene anche alle nostre emozioni, alla psiche. Certo. Volevo fare un invito, se possibile, a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Essere Benessere. Ah, ma noi siamo onorati. Sabato 22 ottobre alle ore 10 all'Idroscalo, Star Bene vi invita a provare a provare la marcia, sì, visto che parliamo di questo. Fra l'altro con un ospite d'eccellenza che è Alex Schwarzer, che è un campione in questo. E lui vi insegnerà. Naturalmente l'accesso è assolutamente gratuito, anzi vi regaliamo il giornale. Mi raccomando però, presentatevi come amici di Nicoletta di Essere Benessere, perché così, certo, avremo sicuramente un occhio di riguardo. Sabato 22 ottobre alle 10 all'Idroscalo, tutti di a marciare. Milano, tutti, esatto, a Milano, uomini, donne. Uomini, donne, beh certo, le elettrici sono sempre le benvenute, le non donne, lo dico perché sono io. Certo. Però a star bene. Luigi, buongiorno, dalla provincia di Brescia, accetta l'invito di Alessandro Pellizzari, riuscirà a fare una marcetta? La marcetta non credo di poterla fare. Avrei però comunque una domanda da porre al dottor Melegato. Va bene, dai, allora facciamo la domanda, andiamo. Ho 53 anni, una intensa attività sportiva a livello dilettantistico, sì, portata avanti a livello agonistico fino a 43 anni circa. Adesso mi alleno in palestra, fortunatamente non ho nessun problema fisico e proprio qua nasce la mia domanda. Allenandomi, avendo molta forza, ho paura, vista l'età, che le cartilagini comincino a risentirne e a consumarsi eventualmente. Ripeto, non ho nessun problema, quindi la domanda, sì, è preventiva. Vale la pena che io faccia, che ne so, una risonanza magnetica per vedere lo stato di consunzione delle cartilagini, per poi eventualmente dosare diversamente, certo, gli sforzi? Grazie Luigi, dottor Melegatti. Oh, allora, mamma mia, direi di cosa no. Sarà capitata Luigi nel frattempo? Ma sì. Abbiamo una musica. No, forse sempre Luigi. Grazie comunque per... dottor Melegatti, allora... No, direi che sconsiglio una risonanza preventiva per una serie di motivi, per i costi, per altro, non è necessario. Però consiglio invece un po' di attenzione in palestra. Ci sono degli esercizi che stressano molto articolazioni come anca, ginocchio, caviglie, rachide, spalle. Tutti gli esercizi in carico... assiale e il signore che ha chiamato sa che cosa intendo, vanno evitati. Sì. Ci sono proprio degli esercizi che noi chiamiamo esercizi in catena aperta, che sono quelli che stressano meno le articolazioni, per cui quelli devono essere gli esercizi da fare e poi soprattutto la progressione dei carichi. Mi raccomando, Allora, abbiamo iniziato la trasmissione parlando di acido lattico e chiudiamo parlando di acido urico. Quanti acidi? Voi lo conoscete? State lì perché questo acido ci può dare dei problemi, ma ci spiega tutto il professor Leonardo Punzi, che è direttore dell'unità operativa complessa all'azienda ospedaliera Unità di Padova. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Professor Punzi, cos'è l'acido urico? Beh, l'acido urico è un acido che nel nostro organismo rappresenta la via finale di alcune sostanze che derivano dalle cellule, che si chiamano purine, quindi la degradazione cellulare del DNA porta ai nucleotidi purinici, questi portano. Che nome difficile, cioè, e quindi, ma ci piace o non ci piace l'acido urico? Ci fa bene o ci fa male? Beh, allora, bisogna dire che l'acido urico è presente nel nostro organismo in condizioni fisiologiche, quindi noi abbiamo tutti una quantità più o meno variabile, ma comunque di acido urico. L'eccesso di acido urico può essere negativo, invece la quantità normale di acido urico è molto utile al nostro organismo perché è uno dei più potenti antiossidanti naturali che noi abbiamo, quindi non è bene neanche che ci sia pochissimo acido urico nel nostro organismo. Breaking news. Un aggiornamento flash per quanto riguarda il premio Nobel della chimica che è stato appena assegnato a Daniel Schechtman dell'Istituto Technion di Haifa, quindi in Israele, per la scoperta dei quasi cristalli. Ne riparliamo in GR24 alle 12. Complimentoni, allora. Torniamo al nostro acido urico, un potente antiossidante, ma professor Punzi, che cosa c'entra con quella malattia che si pensava un tempo colpisse in particolare gli uomini, uomini facoltosi, uomini di potere, teste coronate, parlo della gotta? Certo, certo. Beh, allora il rapporto tra l'acido urico è che l'eccesso di acido urico, che è una quantità valutabile al di sopra dei 7 mg per decilitro nel nostro organismo, all'eccesso l'acido urico precipita, quindi forma precipitando dei cristalli. Vedi, a proposito del a proposito Nobel, del Nobel, vede? Ecco, i cristalli sono delle particelle molto molto pericolose per il nostro organismo, tant'è che in una reazione immediata l'organismo crea un'infiammazione molto acuta che colpisce generalmente all'inizio soprattutto l'alluce, e questa infiammazione è potente, una delle più potenti che il nostro organismo abbia modo di conoscere. Chissà se c'è un nostro ascoltatore che l'ha provata. 800 24 00 24. Ma professor Punzi, è vero che la gotta sta cambiando anche faccia e si sta è anche un po' genere? Ma certo, perché allora parlavamo prima dell'acido urico, che abbiamo detto che è un prodotto finale del nostro organismo, deriva dalla degradazione di queste proteine cellulari, però viene anche prodotta dal nostro organismo, dal fegato in condizioni normali, e poi viene eliminato soprattutto dal rene. Per dei motivi soprattutto legati a una scarsa escrezione renale oppure a un eccessivo introito alimentare, sì, bene, allora l'acido urico può effettivamente aumentare il nostro organismo. Tenga conto che alcuni alimenti, alcune bevande, sì, per esempio alcoliche, soprattutto la birra, ma anche cibi a base, alimenti a base di fruttosio, bevande a base di fruttosio, che è molto pericoloso, possono inibire l'escrezione renale dell'acido urico e quindi favorire l'iperuricemia. Professor Punzi, grazie per essere stato con noi. Abbiamo fatto questo piccolo focus sulla gotta, una malattia che sta cambiando faccia. Ne avete parlato anche voi a Star Bene. Meglio tenercela lontana, tenerci l'acido urico nelle giuste quantità, come colpisce potente anche antiossidante. Giovani, Ai ai ai. Allora, dottor Melegatti, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Venga a trovarci presto. Proveremo anche noi il ghiaccio, i cubetti di ghiaccio e acqua. Questo ce lo portiamo nel a Martini. Casa. Allora, grazie a voi che ci avete seguito, da Alessandro Pellizzari, Carmelo Lauricelli in regia, la parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Cosa devo dire? Di venire a trovarmi domani, di venire a trovarmi su Facebook, di scaricarci e di visitare ogni giorno il nostro Daily Lab per ritrovarci domani insieme, belli, sani, riposati, e fare il piano di benessere. Buona giornata da Nicoletta. Essere e benessere.